24 mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì agli ascoltatori, grazie agli ascoltatori che mandano già messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp. A chi chiede di Alessandro, ha fatto questo piccolo ponte, lo ritroveremo mercoledì. E cominciamo dalle prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore del lunedì, che sapete è un numero speciale, poi qualcosa in più ce lo darà in versi Mauro Meazza tra pochi minuti, alla solita ora, insomma intorno alle 7:40. L'approfondimento però della prima pagina è dedicato al fisco. Questa è la stagione delle dichiarazioni dei redditi, il 7:30 precompilato e tutti gli altri adempimenti. Sul Sole 24 Ore di oggi trovate anche un approfondimento sulla rottamazione delle liti. Fisco, per 500.000 di liti c'è questa chance di rottamazione. Trovate tutti i dettagli a pagina 3. Poi molto interessante l'analisi di Francesca Barbieri e Chiara Bussi sulla possibilità di calcolare non soltanto il PIL, che è il prodotto interno lordo, cioè quanto si produce in un paese, che viene tradizionalmente usato come indicatore di ricchezza, ma anche altri indicatori, gli indici di benessere, che fanno capolino, ci spiegano Francesca Barbieri e Chiara Bussi in un servizio poi a pagina 5, nei bilanci dei paesi dell'Unione Europea. La prima pagina del Corriere della Sera, come potete immaginare, tutte le prime pagine sono dedicate ai risultati delle presidenziali francesi, il primo turno, a seconda dell'ora in cui hanno chiuso i giornali, le percentuali variano abbastanza, però più o meno ormai sappiamo che Emmanuel Macron è avanti di un punto e mezzo, a seconda appunto dell'ora in cui sono stati rilevati i risultati dai seggi rispetto a Marine Le Pen. Quindi sono loro due che andranno al ballottaggio del 7 maggio, cioè tra due settimane. Corriere della Sera, tutta pagina, la sfida è tra Macron e Le Pen. In prima pagina il Corriere è anche l'unico che dà la notizia di questo orribile agguato, imboscata a Cookie Galman. Credo che il suo libro Sognavo l'Africa sia uno dei libri che mi ha più colpita. Lei ovviamente non è un libro di grandissimo valore letterario, ma la sua storia, la storia della sua vita dedicata appunto a salvare quel pezzettino di Africa dove ha scelto di vivere, in Kenya, è una storia bellissima. Ha 73 anni, però è sempre stata osteggiata da alcune persone proprio in Kenya, bracconieri o comunque altre persone che non hanno questa visione di medio lungo termine dell'Africa, ma spesso cercano solo profitti e quindi da sempre appunto, se ci sono tante persone che la sostengono anche attraverso comprando i suoi libri, ce ne sono anche tante che la osteggiano da sempre. Ieri appunto in un'imboscata la sua jeep è stata costretta a fermarsi, è stata colpita allo stomaco, è abbastanza grave, però pare non in pericolo di vita. La Repubblica, dal Corriere vi segnalo, ma è stato intervistato un po' da tutti, Jacques Attali, che è stato in passato, sì, tutti in queste interviste ribadisce di essere un po' lui lo scopritore di Emmanuel Macron. L'ho scoperto io, ecco come governerà. Ripeto, c'è un'intervista sul Corriere, ma anche su altri giornali. La Repubblica ha due foto, naturalmente una di Macron e una di Le Pen, è in gioco l'Europa, e anche qui commenti per su Pietro Del Re, per esempio, inviato a Parigi, dice, ripete questa frase di Marine che ha detto sarò come De Gaulle, il generale De Gaulle, che naturalmente resta un mito della Francia perché fece moltissimo per ricostruire il paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, però anche Macron dice rifonderò la Francia. E qui le considerazioni sulle prime dichiarazioni di Macron, che sono arrivate dopo quelle di Marine Le Pen, le fa Anaïs Ginori, altra corrispondente della Repubblica da Parigi. Vi segnalo dalla Repubblica un'intervista un po' a Marcord per me, perché i libri di Asterix e Obelix sono un po' i libri della mia infanzia. Uno dei due autori di questi libri a fumetti è Albert Uderzo, che in realtà è di origini italiane, quindi possiamo chiamarlo Uderzo, e lui dice è un grande sostenitore dell'Europa e dice se salta l'Europa siamo nei guai, ed è chiaramente schierato per Macron. Tra l'altro vi segnalo, perché ne ho stampate un po', se le trovo, anche tutti i titoli, non le trovo, i titoli dei giornali stranieri. Quello che mi è sembrato così più intrigante è un titolo della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che titola, che naturalmente prevede, come quasi tutti, ma in realtà le incognite sono molte, prevede che al secondo turno vincerà Macron, e dice Macron è più europeista di Schröder, di quello che fu Schröder, che cancelliere in Germania, autore di riforme importanti, soprattutto quelle sul lavoro, il cosiddetto ciclo delle leggi Hartz, quindi più europeista di Schröder, che già era in Germania, passa per essere appunto un appassionato europeista, più liberale di Tony Blair, anche perché Tony Blair in teoria era comunque un uomo di un partito di più di sinistra che di centrosinistra, mentre Macron è un uomo di centro, e quindi in questo scenario, secondo la Faz, è una figura e lo è senz'altro, come dicevamo nella prima parte del programma. Il suo partito è nato da zero quando ha deciso di candidarsi, di uscire dal governo Hollande e candidarsi alle presidenziali. È sicuramente una novità, perché appunto è un uomo di centro, ma con così dove si possono scorgere anche per esempio l'europeismo, che non necessariamente è di un partito di centro o di centrodestra. La Stampa, il duello che trasforma la Francia, e La Stampa è l'unica che sottolinea come per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica siano esclusi i partiti storici dal ballottaggio. Anche qui tantissimi commenti, tantissime interviste. Ve ne segnalo anche una, Massimo Cacciari, che peraltro ne dà una anche molto ampia su temi che non sono solo quelle delle presidenziali, a Libero, e il titolo dell'intervista a Massimo Cacciari: affidarsi alla protesta porta solo confusione. Il Giornale: la sinistra crolla, la Le Pen non sfonda, perché infatti c'era chi aveva previsto magari un successo ancora maggiore di Marine Le Pen, o addirittura una vittoria al primo turno. In realtà veramente sono staccati di un punto percentuale, qualcosa di più, però in effetti in testa c'è Macron, e da qui il titolo del Giornale: la Le Pen non sfonda. Il commento del direttore del Giornale Alessandro Sallusti è: chapeau a Marine, quindi complimenti, ma la destra a destra ora deve aprirsi. Molte le ipotesi su appunto quello che succederà in queste due settimane che ci separano dal secondo turno, che sarà il 7 di maggio, per capire se Marine Le Pen continuerà a usare i toni che ha usato in campagna elettorale, o se cercherà di mostrarsi un po' più moderata, proprio perché in ballo, sappiamo, ci sono quel circa 50% di voti che nel primo turno non sono andati né a lei né al suo rivale Macron. Il Messaggero: Macron Le Pen la scossa. E il Libero invece è l'unico giornale che non titola sulle presidenziali francesi, anche se ha quello che in gergo giornalistico si chiama palchettone, cioè un titolo subito sotto la testata che richiama i risultati, perché in realtà il titolo della prima pagina è: Giletti fa fette fini. L'ex presidente... La parola è questa, la leggo, anche se mi fa sempre effetto vederla scritta, tra l'altro vedere scritto... parolacce, si chiamano così, credo, adesso qualcuno dirà forse che sono buonista. In ogni caso, l'occhiello di questo titolo è l'ex presidente sputtanato su Rai 1. Perché? Perché ieri, alla trasmissione L'Arena, condotta da Massimo Giletti, si è parlato appunto della questione di Gianfranco Fini, del famoso affair della casa di Monte Carlo, e secondo appunto il titolo di Libero, Giletti fa fette fini. Richiamata in prima pagina, anche con una grande illustrazione, un'intervista di due pagine, che trovate le pagine 8 e 9, a Maroni, il presidente della regione Lombardia, perché un altro referendum di cui forse non si parla ancora tanto, ma perché manca in effetti ancora un po' di tempo, la data fissata è il 22 di ottobre, è quello che dovrebbe sancire l'indipendenza amministrativa della Lombardia e del Veneto, che potrebbero unirsi in questa macro regione. Secondo questo il titolo scelto dall'intervista, vedrete cose che nessun italiano ha mai visto. Maroni illustra i vantaggi del referendum per l'autonomia. Il Fatto Quotidiano, ghigliottinati i vecchi partiti. E c'è poi anche un'intervista, tra l'altro, a Di Maio su questa questione, di cui abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione, con Silvia Brasca e Angelo Maria Perrino, delle accuse del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio alle ONG che operano nel Mediterraneo. Il titolo scelto dall'intervista del Fatto Quotidiano è: sui migranti mangiano tutti, non voti ma verità. Il secolo XIX, ve lo segnalo, ha il titolo, è molto simile alla Stampa, perché sapete che sono di fatto un unico gruppo, appartengono a un unico gruppo editoriale, la Stampa e il secolo XIX, che è il quotidiano di Genova. Le Pen Macron sfida finale, ma vi segnalo in particolare, perché è il giornale che dedica a questa tristissima vicenda più spazio, perché è una vicenda che si è svolta in provincia di Genova, a Casella, dove il bambino gettato dai genitori fuori dalla finestra, avevano cercato di proteggere in qualche modo la superficie sulla quale sarebbe caduto, ma questo non è bastato. Il bambino è caduto, è entrato in coma e i genitori hanno deciso di donare gli organi. E così cinque diversi altri bambini hanno avuto una chance grazie agli organi di questo bambino morto, che aveva solo 6 anni. Il Giorno, Marine contro tutti, e vi segnalo dalla prima pagina, ecco, perdono, anche Il Giorno mette in prima pagina la questione, l'attentato a Cookie Gallman, agguato a Cookie, la paladina italiana degli animali, ma Il Giorno anche giustamente continua a seguire la vicenda del famoso famigerato Igor, il killer tuttora in fuga, perché nonostante appunto si sia impegnati in questa caccia all'uomo da più di 10 giorni, ancora non è stato catturato. E quindi la sfida di Igor, ce la racconta Nicola Bianchi a pagina 12, in un casolare il messaggio della belva: vi ammazzerò. E vabbè, vi lascio anche con il titolo della Gazzetta dello Sport, perché ieri c'è stata questa sconfitta del Milan. Rossoneri e nerazzurri in fuga dall'Europa, il derby del pianto. Il Milan imita l'Inter e crolla con l'Empoli, sapete, ha perso a San Siro ieri per 1-2. Adesso la grande questione è appunto che le due squadre milanesi sono molto in crisi, e poi naturalmente spazio alla vittoria della Juventus, che a questo punto va a più 11 sulla Roma, che giocherà stasera. Ci lasciamo però un attimo per una pausa, ci ritroviamo tra qualche minuto. Mattino. Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli. Abbiamo visto tutte le prime pagine, compresa quella della Gazzetta, che insomma dà conto di questo momento difficile delle squadre milanesi, l'Inter e il Milan. Grazie davvero a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, non tutti naturalmente positivi, ma va bene così. E tra l'altro mi segnalano una precisazione sul referendum, questo referendum di cui abbiamo parlato, per il quale voteremo il 22 di ottobre, e un ascoltatore da Roma mi ricorda che non è un referendum che sancisce qualcosa, ma che è un referendum a consuntivo. Comunque sarà sicuramente, come sempre, sappiamo che poi ogni consultazione popolare assume anche dei significati al di là del risultato pratico. Lo abbiamo visto molto bene con il referendum per il quale abbiamo votato in dicembre per la riforma costituzionale, che poi ha assunto anche altri significati. Parlando di Milano, ed è una vicenda che ho seguito con particolare attenzione, perché in passato ho frequentato molto il Salone del Libro di Torino, e quindi da una parte non poteva che essere una buona notizia di avere un'altra manifestazione dedicata ai libri, la manifestazione Tempo di Libri, che c'è stata e durata dal 19 al 23, quindi ieri domenica qui a Milano. Però molti sono un po' delusi, perché i visitatori sono stati 70.000 in tutto, contro i circa 140.000 su cui si assesta il Salone di Torino, che sarà in maggio. E quindi dalla Repubblica: il Salone cambia date, quindi molto probabilmente il prossimo anno sarà lontano dal 25 aprile, per evitare problemi di ponte o appunto di città deserta, perché, o comunque meno affollata, perché le persone approfittano di questo ponte per lasciare Milano, ma anche insomma un po' di autocritica, il fatto che gli editori si siano divisi alla vigilia: alcuni hanno scelto di venire a Milano, alcuni andranno anche a Torino, altri no. A proposito di cultura, un tema sicuramente su cui si può discutere molto, cioè quanto va finanziata la cultura con soldi pubblici, quanto per esempio il cinema, i teatri, le orchestre hanno un valore che è per tutti, è per la comunità e per la società, e quindi giustifica anche i fondi pubblici, anche perché è molto difficile per esempio per le fondazioni lirico-sinfoniche mantenersi in attivo. E su questo vi segnalo l'inchiesta della Stampa di Sandro Cappelletto, che è un esperto di lirica, anche critico musicale della Stampa. Abbiamo visto ieri la sua, lo scoop su questo baule che la famiglia gli eredi di Giuseppe Verdi hanno deciso di aprire, insomma, di svelare, di lasciare che tutti sappiano che cosa c'è all'interno di questo baule di Verdi, dove ci sono inediti, scritti storici. Per gli appassionati sarà sicuramente molto, molto interessante vedere queste carte. Oggi invece un'inchiesta con dei numeri che fanno abbastanza paura: teatri d'opera, il grande miracolo italiano al contrario, perché a 50 anni dalla legge che ne riconobbe il rilevante interesse nazionale, le fondazioni lirico-sinfoniche, appunto, quindi parliamo della Scala, del Teatro dell'Opera di Roma, della Fenice di Venezia, del Teatro Massimo di Palermo, del Regio di Torino, del San Carlo di Napoli, solo per citare i principali, ma poi c'è anche l'Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ecco, le fondazioni affogano tra debiti, cause e licenziamenti. Perché e come uscirne? Un'intervista a Dall'Ongaro, che è Michele Dall'Ongaro, che è il presidente appunto dell'Accademia di Santa Cecilia, che dice: una società senza educazione musicale è una società sorda. Il problema, forse, appunto, come sempre, bisogna andare un po' a ritroso. E se i teatri non riescono a stare in piedi, anche perché non ci sono abbastanza spettatori o frequentatori dei teatri lirici, forse è perché manca anche un'educazione musicale nelle scuole. Vi segnalo anche dalla Stampa la trascrizione di parte del messaggio di Papa Francesco per i 50 anni dalla morte di Don Milani, che morì a Firenze nel 1967. In questi giorni esce anche un Meridiano, quei volumi della Mondadori monografici, e quindi c'è questa doppia occasione per parlarne. E tra l'altro questa è una notizia anticipata dalla Stampa, che è stata appunto la prima volta che un Papa ha recensito un libro con un videomessaggio. Papa Francesco appunto ha elogiato Don Milani, che sapete fu invece molto osteggiato in vita, persino appunto dalla Chiesa. L'ossessione di Don Milani, possiamo dire così, in senso buono, naturalmente positivo, era la scuola. Visto che ne abbiamo appena parlato dell'importanza della scuola per gettare i semi di tanti interessi anche o di tante passioni, anche di quella per la musica. Vi leggo soltanto l'ultima parte di questo intervento, questo videomessaggio di Papa Francesco. Accostiamoci allora agli scritti di Don Lorenzo Milani con l'affetto di chi guarda lui come a un testimone di Cristo e del Vangelo, che ha sempre cercato, nella consapevolezza del suo essere peccatore perdonato, la luce e la tenerezza, la grazia e la consolazione che solo Cristo ci dona e che possiamo incontrare nella Chiesa nostra madre. Tantissimi altri approfondimenti naturalmente sui quotidiani di oggi. Vediamo un po' quelli che ho messo da parte. C'è la questione all'Italia. Oggi termina il referendum sul preaccordo siglato dalle organizzazioni sindacali e l'Alitalia. L'affluenza è molto alta, si va verso il 90%, ma non è chiaro. Ieri abbiamo visto alcune anticipazioni: secondo il Messaggero sarebbe avanti il no, soprattutto tra non tanto il personale di terra, ma le hostess e i piloti, che sono quelle ai quali probabilmente andrebbe il taglio della retribuzione, perché l'8% è previsto da questo accordo, la riduzione di retribuzione del personale navigante, quindi appunto hostess e piloti. A pagina 10 del Corriere della Sera, all'Italia affluenza verso il 90%, e poi si riportano anche le dichiarazioni di Del Rio, ministro delle infrastrutture: nazionalizzare è impossibile. Ricorderete che sabato invece era stato il premier Gentiloni a intervenire direttamente sulla questione e dire che se il referendum dovesse fallire, cioè lui considera un fallimento un'eventuale vittoria del no, che respingerebbe questo preaccordo, per l'Alitalia non resterebbe che il commissariamento. Il Corriere della Sera ha una seconda pagina dedicata a questa, alla vicenda all'Italia. C'è un'intervista a un pilota, Stefano Di Cesare, che è pilota per gli aerei di lungo raggio, che dice: le rinunce finora sono state tante, è difficile avere ancora fiducia. E poi uno schema che ci chiarisce molto bene quello che succederebbe nel caso di vittoria del sì, con sacrifici e tagli, anche capitali freschi, nuove rotte e nuovi aerei. Invece con una vittoria del no, subito i commissari, e però se in qualche modo non si immette anche liquidità, fallimento più vicino, quindi un vero e proprio fallimento. C'è un numero che, come tutti i numeri, fotografa senza tante parole una realtà drammatica, quella dell'Alitalia da tantissimi anni: 600 milioni di euro, la perdita stimata di gestione della compagnia aerea lo scorso anno, l'anno dei profitti più alti per l'aviazione mondiale. La liquidità, appunto dicevamo, la cassa, è prevista esaurirsi entro fine maggio. A quel punto non ci sono più i soldi, sicuramente non per comprare nuovi aerei, ma anche appunto per pagare i dipendenti, che sono circa 12.500. Tutti hanno votato in questi tre giorni per il referendum. Ma adesso ci colleghiamo con Mauro Meazza, perché è il momento poetico del lunedì. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulia, grazie di questa impegnativa presentazione. Certo, è il momento poetico, naturalmente, come sempre. Daremo lettura in 24, rigorosamente 24 versi, di alcuni dei contenuti del Sole 24 Ore di oggi. Già ho visto che hai segnalato il nostro titolo principale, ma anche l'inchiesta sugli indici di benessere. Sì, tra l'altro c'è un ascoltatore che mi chiede appunto di approfondire un po', ovviamente trova il Sole 24 Ore in edicola, però è un tema molto interessante questo di trovare dei modi più articolati per misurare il benessere di un paese. Il lavoro che abbiamo fatto è stato partire da alcuni indicatori che nel DEF italiano, cioè nel documento di programmazione economica finanziaria, come si chiamava una volta, sono stati inseriti, e vedere in base a questi indicatori come stanno messi tutti i paesi europei. Ma poi abbiamo anche notato e segnaliamo come altri paesi stiano pensando la stessa cosa. In pratica, non solo dati economici, puramente economici, quindi il prodotto interno lordo, ma guardiamo anche a quale può essere la distribuzione della ricchezza, l'occupazione o la disoccupazione e la qualità dell'occupazione o disoccupazione, quindi se prevale la lunga durata, oppure ancora i dati che possono parlarci di ambiente, per misurare non tanto, ovviamente questo è impossibile, la felicità, ma le opportunità, il benessere diffuso appunto di uno Stato, di un Paese. È un processo che in realtà, di cui si discute da molti anni, erano stati fatti degli esperimenti già in Francia qualche anno fa, c'è un progetto internazionale sulla materia. Noi abbiamo visto che qua e là, insomma, i vari paesi europei si stanno attrezzando per leggere meglio lo stato di benessere della propria popolazione. Uh-huh. Ma ti segnalo anche i nuovi poteri dei sindaci, perché sono oramai uh-huh. definitivi. Sai che si era parlato di sindaci sceriffi. Sì. Ecco, abbiamo condotto una prima inchiesta anche curata sul contenuto della legge, per verificare quanti e quali siano questi nuovi poteri dei sindaci, come i DASP urbani. Insomma, si può essere allontanati, sono più che altro interventi in ragione del decoro o dei comportamenti antisociali che possono crearsi. Chiaramente non c'è una capacità di irrogare sanzioni penali da parte del sindaco, che sarebbe ovviamente fuori luogo. Ma tutto questo è molto alto sul Sole 24 Ore, che ora vado a declamare in versi, non prima di averti ringraziato per la lettura del titolo della Gazzetta dello Sport, di cui vedrai, insomma, evocato qualcosa anche nei miei modesti versi. Dal primo grado e fino in Cassazione, le liti con il fisco sono un tarlo. Già si avvicina la rottamazione lì, nella manovrina di Piercarlo. Il Sole ne contò 500.000 e forse fu prudente allo stimarlo, ma il conto è pronto lì, sul paginone, or chiuda il contenzioso chi può farlo. Noi vi avvisiamo, solitaria Vox, che nel decreto legge stan cambiando gli sconti per chi sceglie il patents box, ed in seconda pagina rimando. da aggiungere alla parte più conforme, quella da leggere religiosamente, ovvero dove stan tributi e norme, come oramai ben sa qualunque gente, che in più s'avrà sollazzo in digitale, trovando il condominio nell'ebook. Ma non è martedì, dirà quel tale, che pure sta in vacanza, il Mammaluk. Godi Fiorenza, ma è l'Empoli Corsaro che oggi rende Alino più simpatico. Così i sogni d'Europa scoloraro e mestamente qui mandiamo il traffico. Mattino. Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli e ancora grazie a tutti gli ascoltatori, davvero tanti che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, tanti sono veramente gentili e veramente ringrazio di cuore. Ce n'è anche qualcuno meno gentile, per esempio l'ascoltatore che si augura che la trasmissione di Report stasera, grazie a Report, la Crivelli andrà a casa. Ringrazio anche lui, non per questo non simpatico messaggio, ma perché mi dà l'occasione di parlare di questo. Sono tantissimi gli ascoltatori o comunque le persone che incontro che ci chiedono qual è la situazione del Sole 24 Ore. La puntata di stasera di Report, come annunciato da vari giornali, comunque come si sa, si occuperà del Sole 24 Ore, che è un'azienda quotata. E se volete qualche spiegazione in più su quello che sta succedendo e anche sul ruolo completamente diverso che hanno i vertici della società e i giornalisti, anche quelli di Radio 24 e di Radio Core che lavorano per questo gruppo, anche sul Sole di ieri, ma anche sul Sole di oggi, c'è questo documento appunto firmato dai CDR del Sole 24, CDR è il sindacato interno del quotidiano di Radio Core e di Radio 24. A proposito di informazione, ieri, e a proposito anche insomma in qualche modo di Radio 24, non so chi qualcuno di voi sicuramente avrà visto, quindi sa già di che cosa stiamo parlando, il faccia a faccia di Giovanni Minoli, che appunto è voce nota qui a Radio 24, a questa trasmissione la domenica sera sulla 7. Ieri il faccia a faccia era con Raffaele Cantone ed è tornata a galla la questione della RAI. Per quanto riguarda le assunzioni, Cantone ha notato molte irregolarità, in particolare su 21 nomine, e quindi ha mandato gli atti in procura. Dopodiché la Repubblica dedica un'altra pagina alla questione della RAI, perché questo di fatto attacco di ieri a Cantone alla mala gestione, che potrà, se veramente le assunzioni sono state irregolari, è un caso di mala gestione, e quindi Campo Dall'Orto, che è in carica da 2 anni, sono molti giorni che lo si dice in bilico, però il direttore generale Campo Dall'Orto va avanti e ha subito dato una prima risposta sulle nomine: ho agito con onestà. E dalla Repubblica vi segnalo anche, perché è forse il giornale che dà più spazio a questa vicenda, è un altro ricordo di Michele Scarponi, il ciclista travolto da un camion sabato e morto. La cronaca appunto: in bici nel nome di Scarponi, sotto shock per la sua tragica morte, il mondo del ciclismo rende omaggio al ciclista marchigiano. Vi segnalo anche una bellissima intervista di Paolo Galassi a Gabriella Sabatini. Chi è più giovane di me, sono tanti, io sono del 69, forse non la ricorda, più presente, tenniste più giovani come Maria Sharapova, che tra l'altro sta per rientrare dopo un periodo di squalifica per doping. Gabriella Sabatini è una tennista che è di origine argentina, oggi vive tra l'Europa e l'Argentina, e negli anni 80 fu appunto molto popolare, anche perché era una bellissima ragazza come è Maria Sharapova, ma come sono secondo me tutte le sportive. Dice: la bellezza in campo non conta, ho bruciato la mia adolescenza, l'estetica serve agli sponsor, sono fuggita per timidezza. Un altro anniversario, abbiamo parlato del 50 anni dalla morte di Don Milani, un altro anniversario recente, che celebra insomma qualcosa di più recente, è quello delle unioni civili. Ce lo ricorda La Stampa: le unioni civili compiono un anno, Però viene anche definita questa delle unioni civili, che sappiamo era una legge che l'Italia attendeva da molto tempo, perché eravamo praticamente l'unico paese in Italia a non averla, e questa legge che poi è stata ribattezzata Cirinnà dall'onorevole che fu la prima firmataria di questa legge, e la stampa la definisce una rivoluzione rimasta a metà. I figli adottivi o naturali del partner omosessuale sono privi di tutele e di riconoscimenti, il cosiddetto problema della stepchild adoption. Molti approfondimenti naturalmente anche sulla vicenda coreana, perché Kim Jong-il continua a lanciare anatemi contro gli Stati Uniti. La minaccia di ieri è: affonderemo la portaerei americana che appunto è vicina alle acque della Corea del Nord. Un aggiornamento anche sulla vicenda di Gabriele Del Grande, che abbiamo seguito molto anche qui a Radio 24, sapete, un giornalista, in particolare documentarista, 35 anni, è dal 10 di aprile che è stato fermato in questa zona della Turchia, dove peraltro, e credo lui lo sapesse, non era consentito essere per degli stranieri. In ogni caso il fatto che sia stato arrestato e che è trattenuto in Turchia è comunque un'anomalia, e si spera, anche perché lui ha poi tra l'altro iniziato uno sciopero della fame, si spera che la vicenda si risolva a breve. In realtà però, secondo il Corriere, si allontana il rilascio, anche perché poi la Turchia, sapete, in questo momento è da parecchio tempo ormai è in una situazione politica difficile da decifrare per l'Europa, ma addirittura il Corriere usa queste parole: i timori per una ritorsione turca. Adesso, questo forse Alessandro può darsi, lo definirebbe l'articolo più inutile. Io l'ho trovato abbastanza divertente, perché da una parte sì, forse è inutile, poi tra l'altro proprio settimana scorsa sentivo a Essere Benessere invece una dermatologa, quindi una persona, un tecnico del settore, che diceva che no, tutte queste ipotesi fantasiose sul fatto che il sapone o usare troppo sapone, usare troppo shampoo facciano male, sono appunto ipotesi fantasiose. Ma attenzione, perché in questo lungo articolo di Greta Schlaunig sul Corriere della Sera, lavarsi meno o senza sapone, la moda dell'igiene etica, nuovo approccio dagli Stati Uniti alla Francia. Tra l'altro Fulco Pratesi, che è presidente onorario del WWF, lo sostiene da tantissimi anni, e quindi viene definito un testimonial di questo parere. Poi c'è anche Mauro Corona, che qui a Radio 24 interviene spesso, e attenzione, quando esagero faccio una doccia al mese, ma non disturbo nessuno, vivo da solo, i miei cani mi sopportano. Una bella notizia, tra l'altro, anche qui di crowdfunding, si parla per esempio si può fare al sabato e la domenica qui a Radio 24, è una bella notizia. Abbiamo parlato di teatri lirici in crisi, però ci sono delle professioni all'interno dei teatri bellissime, affascinanti, ma naturalmente come tutte le professioni richiedono una lunga formazione, spesso costosa. E il Corriere della Sera ci racconta, dai sarti agli scenografi, i nuovi talenti della Scala finanziati dagli sponsor. La formula del crowdfunding raddoppia le borse di studio. Altri, vi dicevo, la lunga intervista a Roberto Maroni a Libero sul referendum del 22 di ottobre, il titolo scelto: con la Lombardia autonoma vedrete cose mai viste dagli umani, quindi l'ennesima citazione dalla famosa frase di Blade Runner, la parte finale di quel bellissimo film di Ridley Scott, in cui appunto il replicante che sta per morire perché i giorni della sua vita programmati da chi l'ha creato sono finiti, e dice: ho visto cose che voi umani non avete mai visto, e tutto questo andrà perduto come lacrime della pioggia. Secondo Maroni queste cose non andranno perdute evidentemente come lacrime della pioggia, e dice: via bollo auto e ticket sanitari, zero burocrazia per le nuove imprese, insensato restare in Europa senza avere dei vantaggi. Quindi ribadisce la sua posizione come governatore della Lombardia, ma anche quella sull'Europa, che è poi quella della Lega e sicuramente del segretario Salvini. Vi segnalo dal Fatto Quotidiano un lungo reportage molto interessante da Cuba. Sapete, in novembre è morto Fidel Castro, che era colui che ha portato la rivoluzione a Cuba e aveva battuto nel 1959 il regime di Batista. il 25 novembre dello scorso anno è morto, aveva 90 anni. C'erano già stati tanti cambiamenti, Obama era andato in visita a Cuba, per il primo presidente americano a mettere piede sul territorio cubano, pensate, dal 1928, c'era stato anche un altro incontro nel 2015, nel 2014 era terminato l'isolamento e il paese guidato da Raúl Castro, fratello di Fidel, aveva cominciato ad aprirsi anche a una sorta di economia di mercato. Che cosa succede adesso a Cuba? È questo reportage di Diego Lopez intitolato Cuba stomaco vuoto, il turista si mangia tutto. Su queste liberalizzazioni, scaffali di negozi e supermercati vuoti o pieni dello stesso prodotto, ma negli alberghi e nei ristoranti frequentati da stranieri si trova ogni cosa. Era però l'ultima segnalazione per oggi, dopo il GR ci sarà Oscar Giannino. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, Lorenzo Nespoli in redazione e vi do appuntamento a domani, perché 25 aprile non avremo il Parlamento ma avremo i giornali e quindi la rassegna stampa italiana. Ancora buon lunedì da Giulia Crivelli.